Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, allora eccezionalmente questo giovedì alle 22.30 ci si ritrova, cari ascoltatori. Questa è la voce sempre comunque di Agostino Spolaore, che anche questa sera, nonostante l'orario, c'è qui in studio assieme al mio caro carissimo Maurizio. Ciao bello, come stai? Buonasera bello, Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ci siamo. Okay. Allora, prima di presentare gli ospiti di questa sera, che tra l'altro è un gruppo che qui a Padova è strafamoso, è molto bravo, insomma sono bravissimi, poi ne parleremo, e alcuni dati tecnici inerenti alla nostra emittente. Vi ricordo le nostre frequenze: 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo i nostri numeri telefonici per chiamare in studio: è lo 049 875 6423, mentre se volete mandare qualche sms per fare qualche domanda, chiedere qualche cosa a questi amici che sono venuti a trovarci questa sera, vi ricordo è il 346 23 20 033. Abbiamo un sito, è www.bluradioveneto.it, lì ci sono tutte le informazioni necessarie inerenti ai vari live e anche alle notizie di cronaca per quanto riguarda la nostra regione, cioè il Veneto. E abbiamo anche lo streaming audio, ci potete ascoltare tramite internet, appunto collegandovi nel sito. C'è una famosa ormai striscia rosa, chiamata un rettangolino rosa, con scritto streaming, sotto c'è una freccia nera piccolina, cliccando lì sentite la radio in diretta 24 ore su 24. Detto tutto questo, sono molto felice di presentare questo gruppo. Sono i Calicanto e benvenuti a questa emittente. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te Roberto e grazie a te Alessandro ovviamente. Abbiamo una band un po' ristretta questa sera perché ci sono vari problemi anche di salute. Ma siamo qui. Siete qui. Ok, esattamente. Beh, sì, siamo ristretti, ma siamo importanti. Una partecipazione eccezionale, una new entry, cioè una partecipazione da poco nei Calicanto, a quella di Alessandro e il gruppo storico Roberto Tombesi, che è uno dei protagonisti, dei fondatori della band. Vecchi. I vecchi. Ecco, come si chiamati esattamente. Ok, 30 anni di carriera sono un bel traguardo, Roberto, cosa dici? Sì. Ci sono i nomadi davanti a noi. Ci sono i nomadi altri. Senza Augusto, però è un'altra cosa. È un'altra cosa, tra virgolette. Sì, non avrei mai pensato di riuscire ad arrivare a 30 anni, però. C'è qualcuno che ha la cuffia un pochino alta. Adesso la abbassiamo. Ecco, adesso forse ci siamo meglio. Ci siamo. Vai, vai. Sì, beh, è stato... Come si dice? Sembra ieri, ma ne sono passati di... Ne è passata di acqua sotto i ponti. Ma l'idea come è partita, Roberto, di fondare questa band? Io credo, senza essere presuntuoso, vai. È stata un'idea intelligente. Ok. Quella di fare una cosa, parlo 1980-81, sì. Un po' contro tendenza. Allora parlare di musica veneta era estremamente complesso, anche adesso devo dire, però allora... Era coraggioso all'epoca, possiamo dirlo? Sì, perché vabbè, a livello di Italia si conosceva bene la musica napoletana, la musica sarda, un po' parlare di musica veneta spiazzava un po', perché in quel periodo si era rimossa tutta quella che era la tradizione legata anche un po' alla povertà, all'emigrazione, a tutta la nostra storia, che giustamente in parte andava anche rimossa perché era una storia di grandi sofferenze. E quindi però si faceva, agendo così si lasciava un vuoto importante che poi andava ad essere riempito da musica, con tutto il bene che se ne può dire, anglo-americana. Certo, assolutamente. Un grande periodo che siamo stati succubi, e forse ancora adesso lo siamo in parte, della musica che un po' viene da oltremare, no? E allora l'intelligenza credo che sia stata, e spero di non essere presuntuoso, è stato quello di investire su qualcosa di anomalo, su qualcosa che allora era... pochi avrebbero scommesso, cioè quello di fare una carriera basata proprio sulla musica veneta, adriatica, in parte mediterranea. Ecco, come nonostante ciascuno dei membri del gruppo Calicanto in questo momento suona anche altre musiche, altre sì. collaborazioni, però la cosa interessante è che noi siamo sopravvissuti 30 anni senza scendere a compromessi, fare cover di Sting o di Massimo Ranieri, che ne so, abbiamo fatto solo la musica delle nostre tradizioni. Penso che è stato da una parte intelligente, dall'altra anche un po' eroico, ma ripeto, non voglio fare retorica, siamo quattro amici e ci raccontiamo senza ambizioni. Uno che non è mai uscito, sceso a compromessi è stato anche Ambrogio Sparagna, cosa dici? Sì, anche ci siamo visti recentemente. Anche lui non è mai sceso a compromessi, ha sempre continuato una certa linea, un certo modo. di interpretare la musica. E questa ricerca continua, Roberto, da parte vostra, di cercare nelle tradizioni e di sviluppare anche un discorso musicale partendo dalle tradizioni. Sì, sì. La nostra storia non si può far finta di dimenticarla, non è giusto dimenticarla, anche se è una storia, ripeto, a volte di sofferenza, di emigrazione. Basta pensare 100 anni fa che cos'era il Veneto. Certo. Però anche su questa sofferenza, su questo distacco che a volte c'è stato rispetto a un territorio che era arido, che non offriva lavoro, quindi bisognava comunque andare all'estero. Però di questa è proprio un omaggio anche che dobbiamo fare ai nostri padri, ai nostri nonni, tutti quelli che ci hanno consentito anche di vivere tutto sommato in un mondo un po' più agevole, forse di quello di 100 anni fa, con altri problemi per la verità oggi. Però insomma, di fame oggi, almeno di quella, non si muore. Esattamente. Qua, almeno qui. Esattamente. In Italia siete in pratica forse il gruppo che più si è ispirato alla terra d'origine, cioè da dove venite, cioè Venezia. Sì, sì. Senz'altro tra quelli che hanno più storia, ecco, mi viene in mente la Compagnia di Canto Popolare che ha diversi anni più di noi, credo 40, però sì, credo che siamo tra i 5-6 gruppi. Ma questo Veneto è così, diciamo, grande da potersi ispirare così per 30 anni di musica? Io credo di sì, potremmo andare avanti ancora per 30 anni, credo, perché poi la nostra musica, se vogliamo andare un po' nel dettaglio, vive anche di composizioni nuove, certo. Le nostre composizioni vive anche di avventure, alle volte un po' d'avanguardia, tra virgolette, tipo musicale, un poetico tipo Biagio Marin, oppure come abbiamo fatto ultimamente Corto Maltese, Ugo Pratt, rientra sempre nell'alveo della tradizione, però è una tradizione visionaria, anche che parla del contemporaneo, quindi ce ne sarebbe molto. Parlavamo prima con Maurizio delle un grande personaggio come Rigoni Stern, che ha influenzato diverse scelte musicali, anche se poi non abbiamo mai musicato niente di suo. E questi sono personaggi che ci accompagnano spesso nelle nostre composizioni, e ce ne sono moltissimi. Zanzotto, Biagio Marin, ripeto, sono poeti e personaggi che, al di là della tradizione del canto orale, quello che poteva essere il canto di nostra nonna, o delle mondine o dei barcari, c'è anche questa componente che noi abbiamo sempre messo in campo fin dal primo momento, quello di non fare solo il famoso ricalco stilistico, quindi si prende un vecchio di 50 anni fa e si cerca di imitare come cantavano per la spannocchiatura del Gran Turco, per la vendemmia. Quello è sempre un'ispirazione sicuramente, ma noi non abbiamo mai fatto pura filologia, ci siamo sempre lasciati anche influenzare da quello che è il nostro sentimento del contemporaneo. Certo. 14 album, sono 14 tappe, 30 anni di carriera, 14 tappe una dietro l'altra, 14 tappe diverse però, secondo me. 14 tappe di conoscenza, di ricerca. Ti ringrazio, questo ci fa. Che ogni album ha una sua caratteristica nei vostri progetti. Ed è giusto che sia così. Un famoso critico, dobbiamo citarlo perché è importante, si chiama Luca Ferrari, ha fatto un libretto meraviglioso alcuni anni fa. Ha parlato di voi con questa definizione, secondo me, azzeccatissima. Folk geneticamente modificato. Il geneticamente modificato dice tutto, secondo me. Sì, è un libro coraggioso di Luca, perché poi si è preso anche le sue belle responsabilità, nel senso che anche su alcune avventure, alcuni personaggi non è stato tenero, perché poi dentro questa musica ce ne sarebbe tanto da dire, spero di non andare fuori dal seminato, però recentemente anche molti musicisti che venivano da altre storie, dalla musica classica, dal jazz, si sono accorti di questo patrimonio, e in vari modi, chi furtivamente, chi invece con sentimento così di coerenza e di, anche di affetto, si sono avvicinati a questa musica. Alcuni in modo molto furbesco, e lui li ha un po' segati, ecco, li ha un po' bacchettati, in parte giustamente, perché ovviamente quando c'è un po' di opportunismo va smascherato. Esatto. Vogliamo ascoltare qualcosa, Maurizio? Sì, vediamo. Certamente. Io sono certamente ansioso di far sentire. Cosa abbiamo scelto allora? Come prima traccia, Roberto, ti ricordi, Alessandro, cosa abbiamo scelto? Assolutamente sì. Come prima traccia abbiamo scelto la prima traccia anche del nostro ultimo lavoro, Mosaico. Che bellissima, ripeto, che bellissima, che noi abbiamo scelto per trasmettere un mese consecutivo. Grazie. Da un certo... è anche quella è una ricerca sulle danze del 1400, del 1500 venete, è una cosa molto interessante. Cosa dici, Roberto? Sì, questo... anche un testo molto particolare con una... Sì, sì. Io penso che come tante musiche nostre si possa leggere in vari modi, in un modo anche molto viscerale, tu lo ascolti e capti quello che ti viene senza andare troppo a fare elucubrazioni. Poi se qualcuno vuole approfondire, credo che ci sia pane per i suoi denti, perché in questo brano, ad esempio, che non ha un filo conduttore, perché se ascoltate con attenzione il testo, che è in dialetto, ma è un dialetto piuttosto arcaico, il dialetto del, si chiama lo stradioto, era il dialetto che parlavano i soldati veneziani, una specie di lingua franca in cui veneziani, istriani, dalmati, montenegrini, greci si capivano. E allora abbiamo preso dei frammenti di questo dialetto mescolato invece a un dialetto contemporaneo del veneziano portuale, potremmo dire, odierno, e in più ci sono citazioni prese da grande poeta Andrea Zanzotto. E questo è credo che il bello di questo brano è essere riusciti a mescolare tutto questo senza corpi estranei. Con più c'è, come dicevi tu, c'è riferimento alle danze di origine proprio levantina, le moresche, le grechesche, che avevano cittadinanza a Venezia nel 4-500, che Venezia è stata una città cosmopolita ante litteram. E ecco, tutto questo c'è in questo brano, se vogliamo fare i colti. Se invece vogliamo goderci il ritmo, penso che possa funzionare lo stesso, l'immagine che dà, anche senza avere approfondimenti tra virgolette colti. Ascoltiamo. Tocco di gnocca, a chi che tocca, pure in burata, ciava nannai. Marcio d'un can, mori domani, ostrega, massa, frega nannai. Animo stesta, la ses, boro, sirocco, banannai. Ora i testa, la ses, fane, for massa brusa nannai, animo stesta la sesta, ora si rotto panananai, ora i testa la sesta, ne fortuna tananai, animo stesta la sesta, ora si rotto panananai, ora i testa la sesta, ne fortuna tananai. L'onda del rock. Allora, Roberto e Alessandro, consentitemi, senza che me ne avete voi e anche gli altri ex componenti, cioè gli altri componenti della band, ma volevo salutare due persone che fanno in qualche modo, hanno fatto parte e fanno parte della prego, band. Prego. Allora, innanzitutto volevo salutare il mio carissimo amico che era il percussionista prima di Alessandro, cioè Paolo Videc, che sono convinto sia all'ascolto perché ci sente spessissimo, quindi ciao Paolone, un abbraccio da parte mia, da parte di tutta Blu Radio Veneto, ovviamente anche dei tuoi amici Calicanto. Ciao, e ciao. Poi volevo salutare con affetto anche la Claudia, perché lei è la voce dei Calicanto. Questa sera me l'aspettavo qui assieme a Roberto, Alessandro e anche gli altri. Non ha potuto venire perché è impegnata, ha mille altri problemi, quindi l'aspettiamo chiaramente un'altra volta. Claudia, se sei all'ascolto, un abbraccio, un bacio da parte mia e da parte di tutta Blu Radio Veneto, ovviamente. Grazie di questo piccolo spazio doveroso che mi sono preso. Roberto e Alessandro, parliamo di questo Mosaico, che è il vostro album dei 30 anni. È un album importante perché, come abbiamo prima ci siamo sentiti Roberto e Alessandro, abbiamo parlato un po' dell'andamento del disco. Parte nel 2010, è partita una commistione, un insieme, un progetto tra la musica colta e la musica popolare, che si è sviluppata anche in questo disco, chiaramente. La musica colta è rappresentata da un'orchestra, la Filarmonica di Verona. Filarmonia Veneta di Verona, pardon. Come mai questo discorso di commistione tra la musica popolare e la musica colta, che è un discorso che voi avete già fatto, però trova una bella propensione in questo disco e anche nei dischi precedenti, nel disco precedente. Tutto questo lo dobbiamo a un grande personaggio, un musicista, critico, ha scritto per molti anni sul Mattino di Padova e purtroppo 3 anni fa ci ha lasciato. Il compositore si chiamava Carlo De Pirro, una persona illuminata in mezzo a questa nebbia padana, devo dirlo, perché è un po' quello che ci ha sdoganati rispetto alla musica classica, con la quale serenamente lo dico, si è accorta di noi solo recentemente. Ah, ok. Nel Veneto. Perché? Sarebbe bello fare una trasmissione su questo, perché le tradizioni venete non sono, pur avendo un partito che è al governo del Veneto, non siano così fortemente radicate e sviluppate, ma magari torneremo su un'altra trasmissione. Per farla breve, Carlo De Pirro una volta, scherzando, dice: sarebbe bello provare a fare un esperimento, la vostra musica, il vostro suono, con un'orchestra classica. Cosa che in paesi normali, penso all'Irlanda, la Spagna, la Francia, eccetera, eccetera, sono state fatte da tempo. Esattamente. In Italia, soprattutto nel nord Italia, soprattutto nel nord-est d'Italia, spero di non sbagliarmi, non erano mai state fatte. cioè prendere un'orchestra classica con i violini, i fagotti, e provare a vedere come questa orchestra classica dialoga con un gruppo come il nostro, che si è sempre occupato di tradizione orale, quindi non musica scritta, musica che veniva tramandata oralmente. E grazie a Carlo ci abbiamo messo un po' di anni, perché la gestazione del progetto è stata piuttosto travagliata per tutta una serie di problemi, poi la malattia di Carlo, la sua scomparsa. Un anno dopo la sua scomparsa siamo comunque riusciti a portare al Teatro Pollini strapieno questo spettacolo. È stato un grande successo. Duole dirlo, tutto questo sforzo è stato replicato una seconda volta sola. E perché non si sa? No, sì, sì, sì, perché si sa, però vabbè, è complesso, okay. È un complesso di cose. E soprattutto, nonostante sia stato un concerto molto apprezzato, ci dicono che 200 persone non sono riuscite ad entrare. Non se ne è parlato molto, questo ci fa un po' male, ma non, il mondo va così. Non so, tu Arco, se hai qualcosa da aggiungere. Beh, aggiungo soltanto che 200 persone sono state fuori, questo è vero, purtroppo, molte fingendosi anche madri o parenti di qualcuno. Piuttosto di entrare, però io ricordo con estrema emozione quel giorno e la replica che abbiamo fatto ad Altavilla Vicentina pochi mesi dopo, perché comunque le centinaia di persone che hanno visto lo spettacolo, perché comunque sono riuscite a vederlo centinaia di persone, tutte sono rimaste comunque molto molto entusiaste della cosa, dell'esperienza, perché comunque io credo che gli arrangiamenti che dopo la scomparsa di Carlo ha preso il testimone Gianluca Baldi, un compositore che ha la cattedra di composizione del Conservatorio di Bari, con i suoi arrangiamenti e le nostre canzoni arrangiate in questo modo completamente nuova, questa veste, brani che hanno 30 anni, che hanno 20 anni, rivisti così anche per i più grandi fan, si può dire, della band di Calicanto, è stata comunque un'esperienza meravigliosa e credo, anche se con estremo dispiacere, perché per tanti motivi che non si possono dire ma ci sono, si può fare davvero poche volte questo spettacolo, comunque ci porta sempre, oltre a tanto lavoro, però tanta emozione quando si sale e quando si scende dal palco. Quindi una chiave di volta per dare ancora più risalto, più una nuova giovinezza alla band, una nuova via da percorrere. Sì, è sicuramente una via nuova, una via che comunque ci porta a scontrarci contro una realtà molto molto molto diversa da noi, e lo dico da conservatorista quale sono stato e dal quale sono fuggito io in prima persona, e scontrarci comunque con una realtà che 30-40 elementi che arrivano, elementi di un'orchestra, siedono sotto la direzione di Antonio Pessetto, che è stato il direttore dell'orchestra Filarmonia Veneta, e in due prove hanno cercato, oserei dire, cercato di fare quello che noi stiamo preparando da mesi. Noi non siamo professionisti, ma cerchiamo di essere professionali in tutto quello che facciamo, perché ci teniamo e credo sia il minimo, il rispetto almeno per quello che si fa e la professionalità. E quindi abbiamo trovato questa nuova realtà, professionisti che in due giorni preparano quello che noi abbiamo preparato con metodica, con scrupolo, con cura, per mesi. Ed è stata anche questa un'esperienza nuova. Sì, sì. Poi, sempre bonariamente, parlando della musica colta e della musica popolare, questo esperimento, credo che anche per Carlo De Pirro, quello che l'ha suggerito, doveva essere un trovarsi a metà strada. Cioè, due mondi musicali che si incontrano e si annusano, si cercano. Son due modi molto diversi, no? L'orchestra non lavora senza uno spartito, noi generalmente non usate lo spartito, non usiamo lo spartito, è tutti qua in testa praticamente, sì, cose. Scriviamo, sì, ovviamente, certo, agli arrangiamenti, però raramente noi andiamo sul palco, sono in magazzino. E questa è, sono due mondi diversi, due mondi, è come mio nonno, insomma, che suonava sì, l'organetto, non ha mai visto una partitura, non sapeva dove stava il sol. Ecco, Carlo De Pirro, da compositore illuminato, aveva capito, come finalmente molti anche nella musica classica cominciano a capire, che non c'è musica di serie A o di serie B, c'è musica, buona musica. Anche un cantore, un pastore sardo può fare una musica che emoziona, così come può emozionare la sonata di Schubert. Allora Carlo aveva capito tutto questo e cercava la commistione tra questi due mondi. Sarebbe stato bello cioè, avere un mese di studio insieme e quindi condividere. Noi siamo dei pessimi lettori a prima vista di musica, però sarebbe stato bello che magari anche l'orchestra, invece di leggere lo spartito, avesse metabolizzato. Allora si entra in un gioco, uno scambio di ruoli che potrebbe essere interessante. Naturalmente oggi in Italia questo non è possibile, perché ci vogliono le strutture, ci vogliono i finanziamenti, eccetera. Ci accontentiamo di aver vissuto questa esperienza e che quando è possibile cerchiamo di replicare, come succederà l'8 luglio, che saremo nuovamente con questo spettacolo che si chiama Sconfini Mediterranei, voluto da Carlo De Pirro, Calicanto e Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Perfetto. Facciamo ascoltare qualcosa adesso o ci suonate qualcosa dal vivo? Io voglio sentire la vostra musica. Va bene, va bene. Cosa allora ci fate? Cosa volete fare? Volete fare qualcosa dal vivo? Sì, sì, facciamo qualcosa dal vivo. Abbiamo deciso. A te, okay, la scelta. Allora proponiamo una Marionette a Zara, tanto per ricordarci che comunque oltre a Veneto, Venezia, le nostre musiche arrivano da tutto il bacino dell'Adriatico, del Nord Adriatico. Questa è una composizione di Roberto, Marionette a Zara. Thank you. benissimo. Anche benissimo. Il finale con l'urletto, Roberto? Questo è storico. È storico. 30 anni di architetto, ma 30 anni anche di calicanto. Ricordiamo la formazione odierna, allora, di Calicanto, Roberto Tombesi, organeti, mandole. Cosa sono i mandole, Roberto? Mandole. Sì, ma si possono dire in tutti i due modi, ma insomma, mandole. Sono degli... è la mamma del mandolino, totalmente un po' più grande, con suono un po' più scuro. E, sì, è lo strumento un po' che, insieme all'organetto, che... suono di più ultimamente. Poi c'è la Claudia alla voce, che ha già Ferronato la voce, poi Giancarlo Tombesi al contrabbasso, poi storico... Gabriele Coltri che suona il cornamuse e l'armonium, Francesco Ganassin ai clarinetti e la new entry Alessandro alle percussioni, chiaramente. Poi importante, nel disco nuovo Mosaico ci sono anche i pezzi originali vostri, non solo solo rivisitazioni, sì, di pezzi, sì, tradizionali, sì, sì. Vostri pezzi, sì, sì. Infatti esclusivamente da voi, ideati da voi, costruiti da voi. Sì, alcuni con riferimenti forti alla tradizione, altri invece più così di linfa personale, che ad esempio Buran di Francesco Ganassin è una sorta di valzer mazurka dedicato all'isola di Burano, e mentre ad esempio ci sono delle moresche, che forse faremo dopo, che in cui c'è una parte di tradizione, una parte di composizione. Anche noi spesso non sappiamo più qual è la tradizione, qual è la cosa nostra, perché l'osmosi è abbastanza evidente. Alessandro, sì. Beh, anche a te Roberto, ovviamente, c'è un tuo collega, diciamo, di strumento che ci sta ascoltando dalla capitale, da Roma, e dice che vi sta ascoltando, vi fa i complimenti, insomma, si chiama Maurizio e vi sta ascoltando assieme ad Anna Maria, quindi un salutone a Maurizio e ad Anna Maria. Grazie Maurizio. Ecco. Allora, parliamo di Mosaico, quindi il disco nuovo, il disco dei 30 anni. L'idea della parola mosaico parte proprio da questi ragionamenti, questa osmosi, non solo musicale. Sì, come spesso diciamo in questo disco, ma anche in altri devo dire, ma questo più degli altri, ci sono molte componenti che vengono a sottolineare questi 30 anni. Il rapporto con il teatro, che è un'altra componente molto forte, questo rapporto con la musica colta di cui parlavamo prima, l'essere dentro la tradizione, cioè acquisire quello che è il testimone della tradizione passata, ma al tempo stesso anche osare, cercando di non uscire dal seminato, la nostra composizione, brani nuovi, come dicevi prima, le esperienze innumerevoli che abbiamo avuto anche col teatro di strada, le collaborazioni con la musica da ballo, c'è un po' tutto. E quello che è stato interessante e che è stato bello, insomma, poi il pubblico dirà, è che siamo riusciti a mettere insieme tutti questi elementi, questi livelli, a mio modo di vedere, senza scalini. Ho capito. Ma lì in maniera piana, lineare, ecco, alcune volte anche noi stessi diciamo, ma sì, questo qua è di tradizione o l'hai fatto tu, no? Perché sì, il bello è che questi, anche pensavo prima al valzer di Francesco, quando lo suoniamo sembra un valzer tradizionale, invece di composizione. Allora, questo penso che sia bello di Calicanto, al di là poi di quello che ritengo sia la cosa più importante, questo suono che ormai è riconoscibilissimo e non so, bisognerebbe sentire qualcuno, ecco, non so, Maurizio che dice, perché tutti ci dicono avete un suono riconoscibilissimo, sì, non diciamo ci rendiamo che... neanche più conto, perché è la nostra storia. Diciamo che è un po' particolare poi, insomma, questo suono che fate. questo organetto poi non è facile sentire spessissimo, voglio dire, sempre comunque qualcosa che va al di là della musica tradizionale, nel senso di musica che si sente tradizionale in quel senso, dico. Musica popolare, senso di pop. Esatto. E il discorso anche di oltrepassare determinati steccati, di andare oltre, l'idea di andare a presentare il disco all'estero e ventilato, io ho letto da qualche parte. Sì, sì, beh. Non è stata la prima volta, però una prima volta, stavolta con una certa conoscenza più forte, volere proprio andare a portare il vostro messaggio all'estero. Sì. Beh, fino a 5-6 anni fa eravamo spesso all'estero, poi abbiamo fatto una scelta, così volevamo coltivare particolarmente la regione. E adesso ci torneremo, ad esempio a novembre siamo stati invitati a un festival in Catalogna molto importante. E quando vai all'estero poi ti rendi conto ancora quanto è importante il lavoro che abbiamo fatto, te ne rendi conto proprio all'estero, perché in Italia non c'è la world music che ha inventato Peter Gabriel, quello aveva fatto un'intuizione, sì, cioè ha recepito determinati schemi, determinati musicisti in determinate nazioni, perché no anche in Italia, e portava avanti un quel discorso, cioè, quello è Devo dire ultimamente ti dicevo prima, 5-6 anni fa c'erano molti festival che puntavano sulla musica italiana. Duole dirlo, adesso, in questo momento l'Italia anche nella musica nostra, insomma nella musica di tradizione, stenta. È un momento che non siamo molto appetibili. Ho capito. Ma lo sappiamo, no? Quando non si investe sulla cultura è un problema. Beh, il problema ce l'hanno anche le altre nazioni in questo momento, non è che... Però devo dire che la musica italiana ha avuto dei momenti più fortunati in Inghilterra, ad esempio 20 anni fa noi andavamo spesso in Inghilterra e gli amici, magari bravissimi bluesman, mi dicevano: ma come cavolo fate ad andare in Inghilterra? Che... che è tutto un altro mondo praticamente. Io gli dicevo: ma ragazzi, ma cavolo, voi andate a vendere i frigoriferi agli esquimesi, cantate in inglese, magari malietto, e fate le cover dei Beatles, dei Rolling Stone. È chiaro che un inglese prima di chiamare voi ci pensa, no? Allora, e questa, ripeto, è stata anche un po' l'intelligenza, il modo di sprovincializzare questa regione, quello di credere su un prodotto forse di nicchia, ma che comunque è originale. Prima mi dicevi come è nato Calicanto, come mai questa scelta. Noi siamo arrivati a un punto a 20 anni, 22 anni, che eravamo stanchi di fare bene le cover dei Beatles o di Birds, all'epoca c'erano di Birds, quindi la musica californiana, americana, tutto quello lì. Degli America. Allora arrivi a un bivio, adesso la suono bene il blues, e cosa faccio? Cioè, o hai la genialità, non so, di un Pino Daniele che ti reinventi il blues alla napoletana, e se no sei arrivato. Allora lì bisognava scendere dall'autobus e ripartire con una strada diversa, e lì devo dire abbiamo avuto ragione musicalmente, come creatività. Poi i risultati non lo so. Roberto, regaliamo l'emozione adesso ai veneziani, se non sbaglio. Alessandro, Venezia mia, hai scelto quella, se non sbaglio, giusto? Sì, Venezia mia, una canzone composta da un amico, da Roberto Krishak, che doveva essere, questa è una storia che racconta sempre Roberto, ormai penso di averla imparata, doveva essere per una cantante famosa italiana, invece a un concerto a Monza sotto il diluvio universale Roberto Krishak ha sentito la musica di Calicanto e ha detto: questa canzone è per voi, e adesso noi la dedichiamo a tutti quelli che ascoltano. Venezia mia. Dararia prioria dararia prioria. sparpagnata, lasi medir se il paragonte piace, che ti me par natosa spensierada, che ti me par quando te dormi in pace dai basi della luna inarsentada in mezzo all'acqua del tuo mar che tasse la poesia. Radio Rock Wave, l'onda del rock. In questa fascia oraria chiamata appunto Rock Wave, eccezionalmente questa sera c'è Agostino Splore con Maurizio Calzavara, questo giovedì 5 maggio 2011, con una parte di una band fantastica. Avete appena sentito la voce e la voce di Claudia e la melodia dei Calicanto, insomma. Roberto, volevo chiederti, hai scelto due figure nuove, giovani, Alessandro, tuo figlio, se non sbaglio, giusto? Sì. Che ha 16 anni. 17, sì. E Alessandro invece Arcolin, Arco per gli amici, che ne ha 20. Queste figure nuove ti danno forze, 21, ti danno forze nuove, ti danno ispirazioni nuove o una scelta dovuta ad altri motivi? Certo, forze nuove. Su mio figlio non ti vuoi esporre per pudore paterno, ma però ricordiamo che tuo figlio suona l'arpa. Sì, sì, poi magari vi racconto anche Arco. Sì, sì, vi racconta anche delle news che lo riguardano e che ci riguardano. No, è una grande soddisfazione per me. Immagino. Perché a parte che Arco è stato mio allievo al liceo, quindi doppia soddisfazione, ma è fisiologico avere anche dei cedimenti nel corso della storia, soprattutto di quelli che hanno tirato la carretta più a lungo, quindi quando arrivano un po' queste nuove energie, una boccata d'aria per noi, un aggiornamento anche su tante cose, perché loro magari avendo anche più frequentazioni con la musica di oggi, è un aggiornamento, com'è? Quindi è uno scambio reciproco anche. Sì, di, sì, di, sì. Di, ma di poi di... anche la cosa, l'energia, la positività, la voglia di suonare. Alessandro di energia ne ha tanta. Alessandro quindi... Arcolin è quello che è qui in studio. Sì, sì. Io lo conosco da un po' di tempo, ma è sempre stato molto allergico, sì, da quel, sì, punto di vista. Però, poi devo dire anche una cosa curiosa. Guarda, noi non abbiamo cambiato moltissimi musicisti nel corso della nostra storia, però abbiamo avuto i nostri ricambi, certo. E devo dire che quando andava via un musicista bravo, una cantante brava, abbiamo avuto purtroppo anche un violinista che purtroppo se n'è andato per un incidente stradale, e per 2 mesi siamo stati sempre così, adesso cosa facciamo, adesso cosa si fa? Poi il musicista che è subentrato ha sempre portato qualcosa di più, siamo stati fortunati in questo. Anche Claudia, quando è arrivata, doveva sostituire Rachele Colombo, che era un musicista polivalente, suonava la batteria, le percussioni, cantava bene, e ci diceva: ma quando la troveremo un'altra voce? Così invece Claudia ha fatto, e così con Francesco Ganassi, il clarinettista, che ha sostituito purtroppo un'altra persona che se n'è andata, Nicola Marsilio, è lo stesso. Poi quando se n'è andato Paolo Vida, dice, col terzo figlio non riusciva più a seguirci, è stato doloroso, lo li ricordiamo segue, sempre volentieri. Mi segue col cuore comunque, Paolo. Sì, sì, ma poi quando è possibile lo cerchiamo di coinvolgerlo, certo. E poi insomma è andato via un grande musicista come Paolo, e abbiamo trovato un giovane che si è fatto in un anno una gavetta incredibile, perché gli abbiamo dato un po' di tempo. Guarda, prova a venire con noi, l'abbiamo portato in Francia, il primo concerto che ha fatto era in Francia, orca miseria. Adesso volevo fare questo appunto qua, sono stato suo allievo, tante queste cose qui, e diciamo che di disegno, non di musica, di disegno, storia dell'arte, e la cosa, cioè il mio regalo di maturità praticamente me l'ha fatto Roberto, perché io ho finito l'orale, sono andato nel bar di fianco al liceo, appena finito il caffè, tanto per farmelo rimanere in gola qualche mese, Roberto mi ha detto: senti Ale, ma a ottobre hai da fare? No, perché così, dai, se vuoi vieni in Francia con noi. Ah, va bene Roby, dai, allora eventualmente vediamo, dai, di preparare tutto quanto per ottobre. Però è stata un'emozione incredibile. Io mi ricordo quando me l'hai detto, sai. È vero. Mi ricordo che me l'hai detto, che eravamo io e te da soli, e guarda che suono nei Calicanto. E io ho detto: non ci credo. Sì, sì, sono con Claudia e gli altri, insomma. È vero. Ed è stato l'inizio di un anno che sì, pieno di cose, pieno di progetti. Cioè, l'inizio che è stato in Francia, uno spettacolo a Bourgoin-Jallieu, spettacolo meraviglioso a mio modo di vedere, con Piero Brombin, Piero Bombini, un grande artista padovano che faceva acquerelli mentre noi suonavamo e proiettati, poi c'era Titino Carrara, un attore, e tutta la formazione di Calicanto con già Alessandro Tombesi che ci è venuto ad accompagnare con l'arpa. Abbiamo fatto uno spettacolo Labirinto Mare che anche lì ha riscosso tantissimo successo, e speriamo quanto prima di poterlo rifare anche nei dintorni con tutti gli ospiti di quel giorno. Dovremmo tornare per i vicentini, per una comunità di vicentini di Lione che hanno visto lo spettacolo e lo vogliono portare lì. Che effetto ti fa, Alessandro, suonare con questa band storica straordinaria, poi tra l'altro? Tu che vieni poi da tutt'altro mondo di musica. Io sì, assolutamente. Io ormai lo sapete, vengo da tutt'altro mondo. Io vengo dal progressive, dal rock in generale, sulle orme del padre. Però io ho fatto questa scoperta dal nulla, cioè per 4 anni su 5 Roberto è stato il mio professore di arte, punto. Cioè non era nient'altro, quando si entrava a scuola e si usciva da scuola. Poi improvvisamente un mio amico Francesco Rocco, che saluto, e mi ha detto: ma sai che suona, il professore suona, fammi sentire qualcosa, gli ho detto, e mi ha proposto un CD, 2 CD, 3 CD, e non mi sono più staccato, perché poi siamo andati a vederli live. Roberto ha instaurato al liceo Galileo Galilei a Caselle, dove insegna, dove io ho frequentato il liceo scientifico, ha fatto un laboratorio musicale che insomma, ha visto nascere un altro progetto che si chiama Nostro Mare, un progetto teatrale che è andato anche ad Assisi a una rassegna nazionale. In Alsazia. E anche in Alsazia, giustamente. Quindi progetti comunque che coinvolgono i giovani, e su questo Roberto insomma, bisogna dargli molto merito, certo. Perché io sono solo uno dei tanti che stanno seguendo ad oggi quello che fa Roberto, quello che faccio anch'io, perché come dice insomma lui, diciamo che il Calicanto è una passione, assolutamente sì, lo è diventata, assolutamente sì. Ti faccio una confidenza, anzi vi faccio una confidenza, forse va bene, già lo saprete. Una sera parlando con Claudia mi ha detto: guarda, la cosa a cui più ci tengo in questo periodo di tempo, si parla di 4-5 mesi fa più o meno, ci siamo trovati una sera a un concerto, mi fa: la cosa a cui più ci tengo in assoluto in questo momento sono i Calicanto, mi sento me stessa, mi sento io, e cantare le loro canzoni, le canzoni nostre, perché si ritiene che è ovviamente sua, è una cosa fantastica per me, ci tengo veramente tantissimo, è una cosa che viene proprio da dentro, mi dice, proprio credo che sia stare, cioè quando si è dentro questa band, forse è questo che nasce, questo spirito sì, credo sia condiviso da tutti. Come diceva Roberto prima, non c'è, una volta che si mette sulla tavola, diciamo, un brano di qualcuno, quel certo. brano diventa di tutti, certo, cioè, certo. anche le composizioni di Francesco Canassin, lui ci dà l'idea, ci dà l'input, che però insieme, questo credo sia bellissimo, anche dopo 30 anni, cioè io ci sono da soli 2 anni dentro Calicanto, però anche dopo 30 anni vedere questo metodo di lavoro che è quello che amo anch'io, cioè si propone l'idea e che diventa di tutti, però quindi la canzone poi la sento mia, Roberto certo. la sente sua, e ognuno adesso, la sente molto personale. Adesso gli ascoltatori vogliono sentire la loro canzone, cosa ci fate ascoltare adesso? Qualcosa dal vivo Roberto. Facciamo la moresca? Facciamo la moresca. Che cos'è la moresca? Ce la raccontate in 2 secondi? Roby? La moresca era una danza antica legata al problema cristianità e turchi. Quindi molto in voga in tutto il bacino del Mediterraneo e appunto Venezia ha avuto molti compositori che hanno scritto delle moresche nel 400-500, perché era un po' come oggi, c'era un po' il gusto dell'esotico, e allora anche il nemico veniva visto come qualcosa che poteva trasmettere. E quindi tutte queste danze che sono basate su dei ritmi asimmetrici, non so, 7 ottavi, 10 quarti, per il mondo occidentale ha un fascino un po' particolare. Noi siamo stati un po' contaminati da queste, da questi ritmi bulgari, greci, e allora abbiamo messo insieme alcune moresche, alcune di composizione, alcune tradizionali. Facciamo sentire un estratto. Rockway, l'onda del rock. Bellissima moresca, quindi una danza coinvolgente in due, ma avete coinvolto molto, siamo solo in due, ma avete molto coinvolto, quindi fisarmonica e percussioni, bellissimo, stringata però essenziale, quello che conta, il feeling c'è sempre, il pathos c'è sempre. Grazie. E la danza porta il pathos, porta il feeling, porta il movimento, è fondamentale, è sempre stato così, tutte le musiche popolari, vero Roberto, vero Alessandro? Sì, sì. Beh, la visceralità della musica popolare sta proprio in questo, che magari certe musiche classiche, magari raffinatissime, non hanno, non ti prendono, non ti prendono alle viscere. Così. Esattamente. Come questa. Sì. E questa qui tra l'altro era una danza che era anche schermata, molte volte era proprio giocata con i bastoni, come Ho capito. Fossero una vera battaglia, no? Quindi c'è, il gioco della percussione è molto forte. Benissimo. Vorrei solamente ritornare un po' indietro, perché dobbiamo svelare il discorso di Venezia Mia, il testo dove è nato Venezia il discorso. Venezia Mia, il testo dove è nato, il motivo perché è nato così e come si è sviluppato. Roberto Criscia, che è l'autore di questo brano, ci ha raccontato questa vicenda che in parte noi sapevamo. C'è Ugo Pratt, l'autore di Corto Maltese, spesso mette in bocca a Corto Maltese delle frasi di varia provenienza, alcune poesie veneziane, alcuni racconti, eccetera. E in un libro che si chiama Arcana, Corte Sconta, Ugo Pratt mette in bocca di Corto Maltese questa poesia, almeno una parte di questo testo che abbiamo letto, che poi, facendo un po' di ricerche, in realtà è una poesia del nonno di Ugo Pratt. Il nonno di Ugo Pratt si chiamava Eugenio Genero, era un poeta vernacolare degli anni 30-40, veneziano. Scriveva poesie e Ugo Pratt ha trovato dalle carte del nonno questo testo che parla di questa Venezia particolare, romantica, e una parte di questo testo lo mette in bocca a Corto Maltese, che si trova in quel momento, mi pare in Cina, in Oriente. E quindi è un momento visionario, lui sente questa nostalgia veneziana, è questa. E così è nato il discorso della musica. Poi la musica è stata abbellita da voi, chiaramente. Sì, sì, sì, sì, sì. Ci abbiamo messo, guarda, parecchio tempo? Sì, sì, perché era un brano che sentivamo nostro, ma dovevamo entrarci, credo 5 certo. anni ci abbiamo messo. Sempre alleva un lavoro anche molte volte di sottrazione invece di aggiungere, no? Di arrivare fino al punto giusto, cioè costruire il pezzo, non piaceva rifarlo, rimetterlo a posto, un sacco di aggiustamenti fino alla stesura finale. All'inizio c'erano molti strumenti, poi ne abbiamo tolti, e poi nel brano che abbiamo che avete fatto, si abbiamo sentito prima, sì. sentire c'è anche, sono due strumenti secondo me importanti, l'armonium, esatto, che è un armonio di chiesa vecchissimo, bellissimo, che suona Gabriele qui, sì, che abbiamo restaurato, e suono a pedali, sai, proprio. E poi ovviamente l'arpa che di Alessandro, mio figlio, che ha debuttato proprio con questo brano. Pezzo difficile per debuttare, o no? Insomma. Non è mica un pezzo tosto, come si dice. Sì. Io direi di far ascoltare un'altra canzone dal disco, siete d'accordo? Sì. Ci ascoltiamo un po' di musica. Avete scelto Zedestine. Zedestine è una composizione di Gianluca Baldi, che ha arrangiato, come dicevamo prima, tutti i lavori che abbiamo portato in scena in Sconfini Mediterranei, e questa è Zedestine de Brusa. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, questa è una composizione suonata dal vivo, ricordiamo dove, chiaramente al Pollini. Sì, al Pollini, in occasione della prima disco Fini Mediterranei con l'orchestra Filarmonia Veneta. Questa commistione che abbiamo parlato, bellissima, tra la musica colta, tra virgolette, e la musica vostra, chiaramente. A proposito di live, scusate se mi intrometto, avete qualche concerto in programma prossimamente? Eh sì, ne abbiamo diversi. C'è qualche data? Possiamo parlarne? Certo, certamente. Anche il posto e tutto. Allora, a giorni dovremmo avere l'ok per una serata importante, secondo noi, nel Capannon Antiruggine di Mario Brunello. Mario Brunello, grande violoncellista, si è inventato questo posto, dove fa musica e invita personaggi anche molto interessanti, da Henry De Luca, Paolini. È un capannone culturale, proprio capannone nel senso veneto. Lui ci tiene spesso a dire che lì si lavorava il ferro, e quindi lui credo che abbia avuto dei contrasti con la musica ufficiale. A un certo punto ha deciso di essere un po' autonomo e di proporre dentro questo capannone delle musiche trasversali. Ecco, andremo lì, penso, a fine... Che si trova dove? A fine maggio, a Castelfranco, ecco. E ultimamente ha fatto delle rassegne anche sulle regole dell'arte, l'arte delle regole, veramente molto belle. Interessante, proprio perché non si parla solo di musica, ma si parla anche così di cultura in senso molto generale. E questa sarà una serata importante al Capannon, appunto, come dice Brunello, Antiruggine di Castelfranco. E poi abbiamo due appuntamenti veramente molto importanti e belli, credo, commissionati dalla Fondazione Cassa di Risparmio per la rassegna sui 150 anni dell'Italia. Ci hanno chiesto di fare un progetto con un gruppo del sud e noi abbiamo chiamato il gruppo Waragnaun di Altamura, un gruppo storico della Puglia, e da un anno stiamo lavorando online e spedendoci delle partiture su quello che sarà un concerto proprio anche questo di sconfini, per far vedere come le due Italie si incontrano attraverso la musica popolare. Bello questo, molto bello questo progetto. Ecco, questo mi sento di dirlo anche agli ascoltatori, non prendete impegni, o meglio, se avete voglia e tempo, venite al Teatro di Bagnoli, di sopra, Teatro Goldoni, il 27 maggio. E poi lo spettacolo si replicherà il giorno dopo alla Certosa di Vigo d'Arzere, qui fuori Padova. Appunto, Waragnaun dalla Puglia, Calicanto dal Veneto, insieme per un concerto sui 150 anni d'Italia. Bello questo. Poi altri concerti? Saremo a Folkest quest'estate, il festival avanti, allora, più importante italiano, il 23 luglio. Padova, al Petrocchi. Padova saremo diverse volte, in varie formazioni, perché per i 30 anni abbiamo studiato anche questa formula che si chiama Carta Bianca a Calicanto, che sono dei concerti, ma sono degli interventi in cui oltre Calicanto compaiono degli ospiti di varia natura, scrittori, registi, collaboratori, e nasce una serata unica. Ci saranno varie serate Carta Bianca a Calicanto, ma tutte una diversa dall'altra. Se guardate nel sito www.calicanto.it troverete questi appuntamenti. E poi a Padova saremo al Pedrocchi, nel Plateatico del Pedrocchi, con sempre lo spettacolo da mosaico. E poi ci sarà un'altra cosa importante. Io da 10 anni sono direttore artistico di un festival di musica popolare a Rovigo che si chiama Ande Cante Balli, e quest'anno festeggeremo i 10 anni e porteremo vari artisti per il decennale, tra cui il gruppo Migliadoiro da Santiago de Compostela, un gruppo strepitoso che è già stato 5 anni fa, e anche con loro troveremo una trade union musicale tra Venezia e Santiago de Compostela, due poli opposti. Posti. Il disco come si può recepire nel vostro sito, come si può comprare Mosaico? Beh, qui a Padova si può trovare da Gabbia Musica e poi c'è la Felmei, che è la nostra storica distributrice, che lo distribuisce in tutta Italia e anche all'estero. Perfetto, quindi si può trovare il facilmente. Sito, abbiamo detto, altri contatti tipo Facebook, MySpace. Ci trovate anche su Facebook e MySpace senza alcun problema. MySpace è myspace.com/calicanto, quindi semplicissimo. Su Facebook basta cercarci Calicanto e ci siamo anche lì. Adesso però noi vi abbiamo trovato qui e qui vi vogliamo sentire, allora cosa ci fate ascoltare adesso? Facciamo Buran. In onore a Francesco Ganassin, che stasera non è qui, ma è l'autore del brano e che è stato colpito, come tutti noi, un po' dalle isole veneziane e da Burano. Ok. Anche questa strumentale, però con qualche con momento di tac, c'è stato un momentino di suono vocale, ma quasi del tutto strumentale, e sempre con Alessandro che tenta sempre di fare una piccola jam session personale, che poi chiaramente viene stoppato. Sono tutti dal maestro. Sì, momenti che ci dedichiamo io e Roberto, perché queste sono comunque canzoni arrangiate, certo. 5-6 elementi. Sono comunque delle rivisitazioni spontanee che facciamo. Esattamente. Poi dobbiamo sottolineare, questo è un pezzo originale vostro, con qualche ricordo della tradizione, però è vostro, assolutamente nostro. Sì, sì. Questo è fondamentale, è importante, perché la band si rigenera, va avanti anche con questo, secondo me. Sì. Poi bisogna dare anche spazio, lo dico un po' da vecchio del gruppo, dare un po' spazio a tutti, no? Certo. poi sono stati dei periodi in cui magari gli storici, io stesso, avevamo un ruolo anche più determinante all'interno del gruppo. Però quando è possibile condividere, quando c'è l'armonia, è molto preferibile lavorare a livello di collettivo e quindi condividere. Secondo me il gruppo è rimasto, cioè è andato avanti per 30 anni perché è rimasto, c'è stata questa condivisione dei ruoli, a mio parere, e continuerà ad andare avanti perché c'è stata proprio un'unione di intenti, quando, come giustamente diceva Alessandro qualche minuto fa, quando il pezzo arriva ognuno mette del suo del pezzo, c'è una discussione, c'è l'arrangiamento, c'è il discorso sul pezzo, però ognuno dà il suo contributo al pezzo, sì, questo sì. È fondamentale. Questo, sai Maurizio, è un po' è faticoso, no? Certo. E noi forse, non dovendo necessariamente vivere con questa musica, perché poi tutti sbattiamo chiaro. Il lunario anche con altre cose, ci possiamo permettere, cosa che magari bravissimi musicisti che vivono di questo non possono fare, possiamo permettersi il lusso di stare giorni sul brano, lasciarlo decantare, non è pronto, vabbè, ci ripenseremo il prossimo mese. Certo. È un modo di lavorare forse anacronistico rispetto ai tempi, artigianale, però io sono innamorato degli artigiani, quindi certo. Mi piace il lavoro manuale, mi piace il lavoro che si può fermare perché trova degli intoppi. Certo, tu hai detto una cosa giusta, quando uno ha una scadenza non c'è niente da fare, deve portare avanti questo, deve fare il brano perché così deve farlo, sì, perché con quello vive, è discorso cambia. Sì, sì. Senza nulla togliere, perché la professionalità è chiaro. Cioè, hai 10 minuti, devi comporre un brano, se sei bravo lo componi e tanto di cappello. La storia nostra è un po' diversa, è proprio il prendersi anche dei tempi lunghi, no? Alle volte anche struggendosi, perché se non ti viene il brano, così. Però è bello anche questo struggimento, la passione, il dedicarci. Si sente un po' di malinconia nelle vostre canzoni. Sì, molto, molti. Siete allegri, fanno... però un pochino, vero o no? Sì, sbaglio. Sì. Proprio recentemente facevo un'intervista su Folk Balleting, che è uno storico giornale, adesso purtroppo online perché il cartaceo non è più possibile, e mi diceva appunto la vostra malinconica allegria o allegria malinconica, sì, è un po' la nostra cifra. È ma una scelta voluta questa. Ma guarda, la mia risposta è che se uno ama Venezia, non può non essere così, cioè il Veneto è un po' questo, spesso ci si trova anche con toscani, con amici, adesso penso a Riccardo Tesi, altro, sì, altro grandissimo, esattamente. Hanno un modo di vivere, la loro tradizione è diversa, noi abbiamo questa melanconia lagunare in cui io personalmente mi ci trovo bene. È chiaro che davanti a uno scoppiettante ritmo di tarantella mediterranea pugliese, sulle prime partiamo un po' svantaggiati perché loro hanno una comunicatività molto immediata, però è la nostra storia. Voi siete come un diesel, poi si prende. Sì, sì, abbiamo bisogno. Esattamente. Sì. Ci ascoltiamo una canzone e poi ci salutiamo? Certo. Cosa ci facciamo ascoltare una cosa dal disco? E... sì, sì. O la suonate? Direi... Noi possiamo suonare solo Villotte Adriatiche ancora. Volete che siccome avete scelto dal disco, avete scelto Stanotte Mo Insognato. Sì. La facciamo per ultima quella, che così chiude, o sì, volete fare live adesso per ultimo? Cosa volete fare? Scegliete voi. Facciamo Stanotte, così. Facciamo ascoltare Stanotte. Sì. Tutti a dormire. Facciamo ascoltare allora Stanotte Mo Insognato. Questa canzone, come è nata? Allora, questa canzone è una canzone che cantava una grande e purtroppo dimenticata cantante veneta, veneziana, si chiamava Luisa Ronchini, è una sorta di Giovanna Marini veneziana che è scomparsa 5-6 anni fa, e quindi dal suo repertorio veneziano. E noi, in genere lei la cantava proprio a cappella, senza accompagnamento vocale, e per l'occasione dei Sconfini Mediterranei Gianluca Baldi ne ha dato una versione con l'orchestra e Calicanto, un brano molto delicato che amiamo molto. Ok. Baby. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, siamo in chiusura, Agostino, ormai abbiamo finito questa cavalcata con la musica di Calicanto. E ora, allora, Alessandro, qualche breve informazione velocissima. Sì, una velocissima informazione. Per i 30 anni di Calicanto, oltre al CD Mosaico, è uscito anche il CD Barene di Alessandro Tombesi. Sono brani di sue composizioni che speriamo il prima possibile di portare sempre qui a Blu Radio Veneto, e brani appunto di sua composizione, di musica tradizionale da lui riarrangiata, in cui Calicanto ha partecipato con varie formazioni. Comunque tutti i membri di Calicanto hanno suonato nel CD di Alessandro, e altri ospiti che hanno completato, arricchito di suoni e melodie, questo bellissimo lavoro che è Barene e che speriamo di portare qui al più presto. Ok, abbiamo finito. Abbiamo finito. Mi dispiace perché ci sarei rimasto ancora tanto qui. Ma anche noi. Vi aspettiamo per una seconda puntata, magari. Molto, con molto, molto piacere. Magari con un disco nuovo, Roberto. No, per un po'. Abbiamo debiti anche con Fruttivendolo. Per un po', credo che. Vabbè. Allora, vabbè, io vi ringrazio di aver accettato l'invito, ovviamente, insomma, di essere stati qui con noi questa sera. Blu Radio Veneto è stata felicissima, anche perché siete una, come dire, una dimostrazione di grande talento, di grande musica della nostra regione, della nostra città, e poi siete dei carissimi amici, insomma, Alessandro, poi tu lo sai, insomma, abbiamo un debole. E quindi avervi qui e sentirvi suonare, sentire il vostro prodotto è stato veramente qualcosa di molto molto bello, mi è piaciuto moltissimo, e grazie. Vi ringrazio nuovamente di... Grazie a voi dell'invito, grazie. E dell'amicizia e della gentilezza con la quale ci accogliete sempre. Portate i nostri saluti al resto della band. Sarà fatto. Con un bacio grande grande a Claudia e a Ferronato. Sì, te lo do io, però. Ok, allora finiamo in bellezza, chiaramente suonando a vostro piacimento. Cosa ci fate ascoltare per salutarci? Vilotte Adriatiche, un pezzettino. Buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte a tutti, ci sentiamo prossimamente. Okay? Con me domani sera, con te domani dalle 22:30. Io non ci sono. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. Un, due, tre. Bella se mi vedessi le galere, come va pulito in alto mare, a botte proreghese le bandiere, dentro via l'inferno naturale. Parle le mura a farte rampegare, venirti a ritrovare sotto le insioni, vado a poterti consolare. Da che ti dan, da che ti dan, da che Rock Wave, l'onda del rock.